E che cosa si è capito? Che vengo anch'io? No, tu non vale ancora una volta, perché perdonatemi, avete sentito Monti anche al GR di Radio 24 dire la disciplina fiscale fa abbassare le tasse. Non le fa abbassare, ripeto, non ci caschiamo, cari colleghi, perché la riduzione delle due aliquote, di un punto, delle due aliquote più basse dell'IRPEF, cioè quella del 23 e del 27%, è a fronte di un innalzamento delle due aliquote, quella dell'11% e quella generale del 21% dell'IVA. Quindi, se questo significa abbassare le tasse, io sono alto, biondo, Napoleone Bonaparte, ho conquistato la Russia, eccetera, eccetera, eccetera. Per favore, iniziamo a chiamare le cose con il loro nome.